ciò che piantiamo, mangiamo. Molto tempo fa, in un piccolo villaggio, vivevano due fratelli, James e Jordan. James era il fratello maggiore. Era molto cattivo, era maleducato ed estremamente scortese con tutti. Sparisci dalla mia vista! Ah, che maleducato! Beh, tu eri sulla mia strada! Mi spiace tanto, signora. Ah, tuo padre è fortunato ad averti, Jordan. James è davvero scortese. Sì, Jordan era l'esatto contrario del suo cattivo fratello. Era gentile e premuroso e, come aveva detto la donna, amava suo padre tantissimo. Papà, ho i frutti che volevi. Grazie, figliolo. James, potresti passarmeli? Devo andare a trovare i miei amici. Scusa. Oh, ecco, papà. Ascolta, James, quello che semini poi lo mangerai. Ricordalo e basta. Cosa significa questo? Vabbè, me ne vado. Non preoccuparti, papà. Sono sicuro che da qualche parte nel profondo è un'anima molto gentile. Un giorno il padre si ammalò gravemente e parlò ai suoi due figli. James! Jordan! Non credo che sopravviverò ancora a lungo. Voglio che voi condividiate questa terra e questa ricchezza equamente tra di voi. Cosa? Papà, non dire così. Starei meglio. Ricordate, la famiglia è molto importante. Dopo alcuni giorni morì e a Jordan si spezzò il cuore. James invece era infastidito. Sono il figlio maggiore. Papà avrebbe dovuto dare tutto a me. Dovrei seguire la legge e buttare fuori Jordan. Ed è proprio quello che fece. James, ma che cosa? Beh, dato che sono il fratello maggiore, mi prenderò tutto. Non è abbastanza per condividerlo con te, quindi vattene. Ma dove potrò andare? E cosa potrò fare? Ma a James non importava. Rise e chiuse la porta in faccia a Jordan. Jordan non sapeva cosa fare, ma decise di andarsene e di iniziare una nuova vita altrove. Presto arrivò in una sterile terra dove si trovava una casa diroccata. Andò nel villaggio vicino e presto trovò lavoro. Con i pochi soldi che riuscì a mettere da parte, ricostruì la casa distrutta, coltivò la terra e presto iniziò ad arare. E col tempo ebbe anche una piccola e felice famiglia. Ma un giorno Jordan perse il lavoro e presto i suoi soldi iniziarono a diminuire. Beh, grazie al cielo abbiamo il campo a tenerci in vita. Ma pochi giorni dopo, una carestia colpì la sua terra e la famiglia ne soffrì gravemente. Jordan cercò nuovamente un lavoro, ma non ebbe successo. Cosa facciamo? Sono passate 2 settimane e abbiamo davvero poco in casa. Perché non chiedi aiuto a tuo fratello? Papà, ho fame! Oh, ecco figliolo, mangiala tutta. Sì, penso che lo farò e basta. Quindi andò a casa di suo fratello. James aprì la porta e rise. Bene, il caro Jordan ora è solo un povero mendicante. Sei venuto qui pensando che ti avrei aiutato? Non lo farai? Certo che no! Non ho più alcun legame con te! Vattene e non tornare mai più! Sbatté la porta in faccia al povero Jordan, James era estremamente felice per la sua ricchezza e la sua vita. Non era cambiato ed era ancora una persona decisamente cattiva. Jordan tornò indietro lentamente e tristemente. Mentre tornava, vide un serpente che stava per attaccare un uccellino. Oh no! Quell'uccellino è nei guai! Oh no! L'uccellino cadde tra i cespugli e quando Jordan andò a cercarlo, vide che la sua gamba era ferita. Oh, poveretto! Non aver paura! Beh, cosa dovrei fare? Così portò l'uccellino a casa, gli mise della crema e lo fasciò con un pezzo di stoffa, assicurandosi che l'uccellino venisse ben curato da lui e da sua moglie. In pochi giorni l'uccellino guarì e volò via felicemente. Girò intorno alla casa 3 volte e poi volò via. Che dolce creatura! Ma mio caro, dobbiamo trovare un modo per procurarci il cibo velocemente. Un giorno, mentre Jordan era fuori a guardare tristemente il suo campo, sentì un suono a lui familiare. Oh, ciao, uccellino! L'uccellino che Jordan aveva aiutato lasciò cadere alcuni semi nel terreno e volò via. Ma che cos'è successo? Proprio in quel momento la terra iniziò a vibrare come se ci fosse un terremoto e fuori dal terreno sbucò una pianta di anguria. Papà, guarda! Che angurie enormi! Wow! Portiamole dentro, d'accordo? Le portò dentro e tutti aspettarono mentre Jordan ne tagliava una a metà. Ma mentre la aspettava, furono tutti sorpresi perché era piena di monete d'oro. Oh mio Dio! C'è così tanto oro! Mi chiedo se anche le altre siano così! Ne tagliò un'altra e vi trovò tantissime gemme. Che noia! Non possiamo mangiarle! Oh, tesoro, questo è molto meglio! Jordan vendette l'oro e le gemme e presto lui e la sua famiglia furono di nuovo felici. Un giorno, mentre raccontava ad alcuni curiosi abitanti del villaggio la sua improvvisa fortuna, un amico di James era tra la folla. Quell'amico andò a raccontare a James tutto di Jordan e della sua buona fortuna. James ne fu seccato. Non poté sopportare di sentire questo e divenne estremamente avido. Il giorno dopo andò nel bosco. Dove posso trovare un uccellino con una gamba rotta? Proprio allora, lì a terra, giaceva un uccellino che si era fatto male alla gambetta. James allungò una mano e lo prese. Uccellino, io ti aiuterò, ma a condizione che tu aiuti me. Quindi James portò l'uccellino a casa e gli bendò la gamba. Dopo alcuni giorni, l'uccellino fu guarito e si preparò per volare via. Te ne stai andando? Ricordati che devi tornare e portarmi fortune migliori di mio fratello. Hai capito? L'uccello guardò James con i suoi occhi intelligenti. Capiva benissimo che James era una persona molto cattiva. Vola via adesso, vai avanti, portami i miei tesori! Il giorno successivo, James si fermò fuori e vide l'uccellino tornare. Alla fine era tornato e James ne fu estatico. Sì, finalmente! Vieni a piantarmi le mie adorabili monete d'oro e gemme! James guardò mentre il seme cadeva nel terreno. Presto la terra iniziò a tremare e uscì la pianta dell'anguria, portando con sé tante enormi angurie. Mio Dio! Quante angurie! Sono grandissime! Quanto sarò ricco! Le portò tutte a casa sua e ne tagliò una. ma invece di monete d'oro, enormi ragni pelosi strisciarono fuori dall'anguria, a dozzine. Ragni! Cosa? Che cosa? Dove sono le monete d'oro? Forse nella seconda anguria? Tagliò la seconda anguria sperando in monete d'oro, ma questa volta ne uscirono enormi topi. Topi? No! La moglie e il figlio uscirono urlando, lasciando il povero James totalmente perplesso. Ancora una! La terza sarà quella fortunata! Tagliò il terzo melone, ma ne uscirono i serpenti più spaventosi e più grandi che avesse mai visto. Corse fuori spaventatissimo. Si unì alla sua famiglia che era fuori, spaventato e confuso. Guardarono mentre gli altri meloni esplodevano e tiravano fuori sciami di insetti. Là! La mia casa! I miei campi! No! Osservava come tutto ciò che aveva avidamente preso adesso era distrutto e trasformato in polvere. Ora cosa facciamo? Perché non chiedi aiuto a tuo fratello minore? James non voleva andare da Jordan dopo il modo in cui si era comportato con lui, ma non vide altra via d'uscita. Così mise da parte la sua vergogna e se ne andò. Jordan! Jordan! Aiutami, ti prego! James, cosa c'è che non va? Cosa ti è successo? James disse a Jordan tutto e anche di come era stato invidioso di suo fratello. Ora si sentiva dispiaciuto per il modo in cui aveva agito. Jordan, mi dispiace per il modo in cui mi sono comportato. Non avrei mai dovuto buttarti fuori. James, va tutto bene? Ti perdono per tutto quanto. Dopotutto, sei mio fratello. Forza, andiamo a vedere cosa fare con la tua casa, su! Oh, sei davvero il miglior fratello di sempre! Il giorno successivo, mentre le due famiglie lavoravano insieme, James guardò felicemente. Fu allora che ricordò le parole di suo padre. Qualunque cosa pianti, mangerai. Oh, le sue parole erano così vere. Ho piantato avidità e malvagità nella mia vita e ho ottenuto solo distruzione. In questo modo, James aveva imparato che se pianti con cattive intenzioni, otterrai solo cattivi risultati. Ma se pianti con buone intenzioni, la vita ti ricompenserà solo con cose buone.